arrestato. Si è lasciato il computer acceso e l'ha visto al computer la madre che la stava violentando. Poi c'è scritto, le persone che si conoscono in rete non sono mai quelle che, non sono sempre quelle che credi. No, infatti affidare è pieno di maniaci, di pervertiti, basta andare su, come si chiama, chat roulette, sono tutte le luci alle fuori. Molte volte le donne si fidano, come questa storia che ho sentito di questa ragazza che era 5 anni che chattava con questo tipo, praticamente loro si dicevano fidanzati, però non si erano mai trovati, si vedevano solo in camera, eccetera, eccetera. Un giorno si hanno dato l'appuntamento, la mamma gli ha detto non ci andare, come se lo sentisse. Però ci ha preso lui, si è trovati a metà strada, gli ha fatto lasciare la macchina sua, la tipa, sotto una galleria e praticamente... Scusate, hanno suonato. Ha suonato quella di fronte, cosa ti vuoi? No, no. 5 minuti qua a suonare il campanello. E cosa vuole? Sì, parlare con mia moglie e cose, ma non ci sono allora adesso. Ah, ho capito. E tu falla entrare lo stesso, no? Com'è, buona? Una cosa. Se no mi facevi sentire l'allaccio in diretta. Ti stavo dicendo, Marco, praticamente ha dato l'appuntamento a questa tipa, si sono trovati dopo 5 anni che si parlavano al computer e gli ha fatto lasciare la macchina sotto una galleria, lì sono andati via, l'ha prima stuprata, poi l'ha ammazzata e gli ha rubato il cellulare, quello lì gliel'ha fregato, capito? Perché dal cellulare sono riusciti a capire chi era il tipo, perché hanno visto il segnale da dove chiamava e l'hanno fregato. Ma poi è gente stupida, ti pare che un cretino va a stuprare una e le ruba il cellulare, ce lo usa lui, ma bisogna essere proprio deficienti. Ma italiano era o straniero? Italiano. Allora è doppiamente deficiente. Per carità, 5 anni che si sentivano, quindi logicamente si fidava di lui, capito? Si conoscevano apparentemente. Non bisogna fidarsi, no, non bisogna fidarsi di nulla e di nessuno. Secondo fonti militari ci sarebbe imminente impatto col pianeta. Durante la trasmissione delle condotte da un certo J. Moore, il conduttore ha affermato di essere venuto a conoscenza di importanti informazioni militari. Secondo la sua fonte, un ex militare... Aspetta che lo leggiamo. Un altro pianeta che va in collisione con la Terra. Nibiru magari. Dice che è una cosa imminente, altro che Maya. Ma speriamo che sia la volta buona però. Cazzo, perché sei così istruttivo? Buonasera, ciao Gianni, ciao Marco, chi c'è? Ciao Luca. Siamo due disperati. Ma non dici una tua racchia, guarda, io sei sicuro che Gianni sta con tutto ora. Non c'è mai un'anima, mai. Vabbè, avanti a te, lavorate, ok, anzi non c'è mai nessuno, ieri non c'era nessuno. Magari anch'io mi dedico un po' alla TV, Luca, per seguire qualche programma, qualche film, se no c'è anche il baracchino, è un po' disturbante. Sì, magari, ma non di guglio, problema un'anima, che sul 4 eravamo, tutta la sera il baracchino, c'era Giulio, Gio Maria, Graziano, è tratto un Giuseppe, poi c'era quella Signori, un bel po' di gente, là, c'era Claudio Ascolto anche. Vabbè, non è che io qua non lo c'entro, capito? Vabbè. Nel 4, perché chi c'è? Nel 4 non entro. Ma per qualche persona? Yes. Quante storie. Chi è? Dillo a me, chi è che non può vedere? Allora, questo è, dico, malattie e cose non vere. Capito? Allora, meglio evitare, dai. Non ti adesso. Avanti, Gianni. Non te la prendere, Luca. È una vita bella. Oh, io, ma pensiamo, Non arrivano, non arrivano, non arrivano, non risolvo questi problemi, no? Ci mancherebbe. Va bene così, così, così. La vita è bella ed è anche breve, Luca, sta arrivando un asteroide che ci porterà via tutti. Speriamo. Anche Luca ha detto speriamo. Comunque non sono d'accordo, che lasci i bambini almeno un po' a godersi la vita, non i bambini. Io da bambino ero felice, ero veramente felice, coccolato da tutti, viziato. Adesso è mera la cosa. C'era qualcuno che ci coccola? Vabbè, sì, si può provare, ma non è la stessa cosa della famiglia, di quando sei bambino. Le ragazze adesso sono già gettami, sono come strane. La mangiatina, usa e getta. Naturalmente non tutte sono così. Bella? No, no. Come mai questo? Ah, ecco perché c'era questo silenzio. C'ho l'attenuatore inserito. Mi sembrava che ci fosse poco corremme. D'altronde non c'è nessuno che modula basso e quindi tanto vale lasciarlo. Ciu-ciu. Gianni. Pensava ai denti colori, spuntati i denti di vampiro, un ragazzino cinese, che sembra una iatta. Ma è nato così? Sì, gli sono spuntati i denti così, sono un bambino. Che sporca bestia! Io c'ho un bestia da loro, i cinesi, figurati con i denti di cane. Luca, vai a vedere, lo sto condividendo. Cosa? Questo bambino che è nato con i denti di vampiro. Positivo e che parolacci. Li hai visti? Gioca la poker adesso. Non gioca la poker, per di tutto. Anzi, hanno scritto come guadagnare dalle 300 a 1000 euro al giorno. Sono andato dopo aver letto tanto, era una slot machine di chi si truffa il dito. Amabio è un poker virtuale, mica assurdo, vediamo me la futti, no, no, assolutamente. Ah, quindi siete assurdi. Vediamo un po', com'è adesso? Sono distante 80 centimetri, 70, vediamo un po', sono distante comunque. Ciao, si sente bene. Caspita, è una bomba questo microfono, allucinante. Quando te lo dissi io. Ok, ma sono a 500 centimetri di bello, così me ne vado alla TV. Non lo so, non ho guardato il programma. Io guardo solo di Max e basta. Telegiornali, buca. Vediamo, che so, c'è lavoro meno 5. Se c'è qualcosa di bello, ma bella veramente, se non mi guardo roba mia. Film scaricati, capito? Ecco, lì porto. No, troppo ovvio sarebbe porno. Per il porno vado direttamente a guardarli su YouPorn. Pure vai su Lupo Porno. Lupo Porno? LupoPorno.com, lì vai. Porra zuccata. No, quella di fronte gli serviva la chiave, ha suonato e sono andato a aprire. La chiave? Si è lasciato la chiave a casa poco fa, quando è venuta c'era qua, capito? È venuto a prendersi. Che fastidiosi vicini che suonano sempre. Facciano da ricorda. Ce n'erano due che abitavano sotto, da me nel secondo sottopiano. Ogni tanto venivano a bussare, a chiedere sale, a chiedere il coso. E un po' si mi attavano, solo che erano brutte con la morte, non ci sarei mai andato. Non lasciato la chiave? No, la chiave no, chiedevano il sale, chiedevano qualche cosa così, no. Solo che erano brutte, non ci avrei mai fatto niente. Vabbè. Un po' di affare, sai, siamo andati a una festa al monte, c'erano due ragazze che ci avevano scritto cerchiamo abbracci gratis. Bracci? Abbracci gratis. Avevo capito bracci, ho detto boh. E tutte se le abbracciavano, ma erano i venghi di drone, per questo le abbracciavano i sciù. Via via, no. Anche loro hanno diritto a un po' d'amore. È vero. Secondo me quelle brutte, siccome spiego, quelle belle se la tirano troppo, no? Se la tirano un bel, non ne danno. Quelle brutte magari, siccome nessuno le considera, magari sono le più assatanate, capito? Sì, pesce, anche io. Perché le belle ne trovano quando vogliono, basta uno sguardo e fatta. Ma le brutte non le vuole nessuno, quindi magari sono affamate di sesso e trovano un bel pure. Eppure ci devo provare un giorno. E poi se non ti voglio dice di pronto perso. Ecco le campane a morto. E c'è questa cosa alle 2 di notte, alle 3, alle 4, alle 5, alle 6. Non mi dico nulla a quelli del palazzo. No, è un pendolo piccolino, c'ha una molla piccolina. Sembra forte, ma in realtà sotto nessuno mi ha mai detto niente. Sotto si sente di più. Sopra c'è uno che non ci abita. Ci abitano come se non ci abitasse, è un zombie. Ciao, un attimino mi devo sentare, dai, che si è squillato il telefono, un secondo. Ehi, quello è Falcone, mi. Perché... A Falcone! Uia, uia, a sentirlo adesso, te lo immagini? Sarà di molto difficile. Tanto ormai è finita l'epoca del gioco delle calzette, non credo che ne faccia più, anche perché con le nuove leggi è l'adescamento di minore. Mi. La prima volta che l'ho sentito col portatile, ho sentito questo chiedere, ma si è pelosa le gambe? Io ho pensato, babba, ho trovato qualche pervertito. Era l'estate dell'84, 1984. Mi ha giù combinato, beh.